Allora, gli 87,9, già ridacchio. Dai, oggi ce la facciamo una risata. Eder, bentornato. Yuhu. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come state? Bene, tu come stai? Bene, fa caldo, se sta bene. È il caldo della vittoria. No, scherzo, anche, dai, ti voglio sentire oggi un po'. Comunque, sì. Non ci prendiamo in giro da soli, noi lo sappiamo, però ci prendiamo anche il tempo di festeggiare. Penso che la maggioranza delle persone lo sanno che in Colombia si hanno fatto le elezioni e che ha vinto il patto storico Gustavo Petro e Francia Márquez, e voleva fare, si posso ovviamente, un po' più di analisi di come è andata quell'elezione e che mi auguro, o che noi auguriamo, che possa succedere in questi prossimi 4 anni in Colombia. Esatto, io voglio dire, non stiamo qui a prenderci in giro, insomma, l'abbiamo detto anche, però io credo proprio che queste elezioni siano state anche un segno di coraggio di tanta Colombia. Adesso capiremo perché. Quindi io credo che ci sia ancora di più un diritto alla festa, alla gioia, che duri poi il tempo che serve per poi tornare e dire adesso tocca rialzare le antenne, tocca stare attenti. Sappiamo che questo governo, il presidente, il suo presidente e la sua vicepresidente si insederanno ad agosto, quindi in mezzo c'è un tempo lunghissimo in cui bisognerà stare molto attenti, molto attente. Così come niente è falso di quello che è stato detto da questi microfoni, penso anche giustamente alla lettura che è stata fatta dal comitato Carlos Fonseca, sicuramente molto più abituato all'illusione, alla delusione, nel senso che ha seguito le storie del Sud America nei suoi successi e poi nelle sue mazzate alle spalle molto più di me. Credo però anche che dall'altra parte sia giusto, cioè, quindi non crediamo che vittoria è fatta e sarà tutto semplice, non lo abbiamo creduto per molto meno. Sapete quanto meno abbiamo investito in quelle elezioni cilene, che sapevamo che sarebbero state una farsa, sapevamo che erano elezioni indirizzate a buttare dalla rupe il fascismo e non ad elogiare un personaggio che non ce frega. E infatti ecco qui, non tira fuori dalle galere i prigionieri, continua a regalare il territorio alle multinazionali, in questo caso canadesi, continua a sbattersene completamente dell'autonomia dei popoli indigeni, ma li riconosce solo quando imparano ad abbassarsi, a piegarsi, a inginocchiarsi proprio alla cultura bianca capitalista, perché poi non è che ce ne sono tante, ecco, ma sicuramente a quella di quel neoliberalismo sfrenato di cui il Cile è stato laboratorio e di cui non ci sembra proprio che Boric voglia essere un po' lo stop. Altro è, credo, quello che sta succedendo in una situazione molto diversa. Niente, sembra che l'unica festa oggi stanno a fare queste campane, eh? e quindi voglio dire, nessuno ci leva dalla testa che le forze armate stanno probabilmente rodendosi dalla rabbia, così le forze di polizia, ma forse queste sono le più normali, nel senso che io credo che poi ci sta tutto un potere nascosto che stia abbastanza capendo cosa fare. Voglio lasciare la parola a te però, Eder, cominciando da quelle che sono state le note di coraggio, io credo, cercando di raccontare qua che cosa è significato che 3 milioni di persone sono andate a votare tra il primo turno e il ballottaggio, no? Quasi 2 milioni e rotti in più, perché se abbiamo fatto, no, affrontato dei macro temi sulla Colombia, sappiamo quanto le zone rurali in Colombia sono ampie, sono isolate, sono solcate da fiumi grandissimi, insomma non proprio in tutti i posti c'era un'urna lì dietro per votare, no? Quindi ecco, ti lascio la parola, mi piacerebbe cominciare da questo anche, prima di veramente cominciare a parlare dei milioni e milioni di pericoli e delle guardie che stanno lì. Sì, questo lo sappiamo, Pedro e Francia sono circondati dalle orche, dagli squali, dalle balene, dai balenieri, da tutti. Vabbè, cominciamo, dai coccodrilli. Cominciamo a fare un'analisi un po' più approfondita di questa storia. Una piragua piena di gente. Come dicono, purtroppo nella radio non si può dire, un'immagine valgono molto più di tante che, parole, che tantissime parole. E stiamo guardando una serie di fotografie interessantissime. Ma... però va bene, la storia è questa: il patto storico, che è il movimento, la coalizione di vari movimenti di sinistra colombiani, che vanno da una sinistra un po' moderata a una sinistra un po' meno moderata, ha vinto le elezioni. Ossia, abbiamo vinto con il 50,4% delle votazioni. Il candidato della destra, Hernández, ha rimasto nel 47 e qualcuna cosa, i voti in bianchi sono arrivati a una cosa un po' di più del 2%. Petro sale di 8.525.000 voti che aveva avuto 20 giorni prima a 11.218.000, una cosa così. Pazzo. E Hernández sale un po', però non le è bastato per vincere. Questa elezione hanno un sacco di cose particolari. Cominciamo con le cose particolari. Prima, del 1974, non si aveva visto tante persone che andavano a votare. In Colombia il censo elettorale, il grado di astensione di questa elezione ha sommato il 42%, quindi il 58% delle persone sono andate a votare. Fra la prima volta, fra la primo giro e il ballottaggio, soltanto in Europa si è moltiplicato per 3 le persone che sono andate a votare, cioè 3 volte in più, che sono tanti. E in Colombia hanno salito del 44% più o meno nel primo giro al ballottaggio del 58%. Questo non lo aveva previsto nessuno. Non lo aveva previsto ni il patto storico, ni la destra, ni nessuno. Per prima volta nella storia in Colombia un partito di sinistra, una coalizione di partiti di sinistra, sistemano più di 71.000 persone per andare a fare custodia al voto. O sea, fu una marea impressionante di persone che avevano come scopo uno a andare alle urne dove si votano e controllare che tutto andasse come dovrebbe andare, contare i voti, fare le fotografie e inviarlo a un indirizzo email. Questo fu fondamentale per evitare fraude elettorali. Sto sicuro che qualche piccolo fraude lo hanno potuto fare, perché sempre lo faranno, però si è ridotto moltissimo questa possibilità. E questo è merito principalmente del patto storico. Dell'organizzazione gigantesca e impressionante. Diciamo che il patto storico metteva insieme una serie di forze che hanno lavorato tutte proprio per arrivare a un... E lo più carino è che tutti questi 71.000 e tanti testimoni che vanno a controllare i voti, tutti erano volontari, senza un euro di stipendio, anche senza il cibo per mangiare. Hanno rimasto dalle 8 desde las 7 y mesa la mattina più o meno fino alle 4 y mesa 5 del pomeriggio, e moltissimi di loro non avevano neanche con che mangiare, perché se non lo portavano loro non lo portava nessuno. Allora, questo è tutto un lavoro di volontà, però quello solamente è un semplicissimo elemento per capire come è andata, che grado di compromesso alla militanza del patto storico in Colombia. E hanno fatto un lavoro veramente titanico, impressionante. È una questione che a me, io rimango molto molto interessato in questo senso, e penso che questi processi di oggi in poi cambieranno sostanzialmente la partecipazione almeno nella giornata elettorale nel campo politico in Colombia. La cambieranno per bene. È una popolazione che sta cominciando a appropriarsi di tutto questo processo elettorale, che fra altra cosa, te lo dico io, non aveva idea di come funzionava fino a 2, 3, 4 mesi fa. Esatto, no, questo io sto dicendo, parlando io, no? In prima persona, non avevo idea come funzionava, no? Mi ha messo a studiarlo, a capirlo, a leggerle, e adesso posso parlare con un po' più di proprietà. Però onestamente fu tutta una scuola politica interessantissima dentro di tutti questi processi storici di elaborazione storica e conoscenza storica e politica. Allora, io credo che così, per dare dati anche a chi casomai oggi ci sta sentendo per la prima volta, non ha seguito le nostre trasmissioni, ricordiamo che in Colombia non c'era un'alternanza come possiamo vedere in altri paesi, in Cile per esempio, oppure non so, il Messico talvolta, adesso Argentina, con AMLO, Argentina, no. Allora, in Colombia credo che questo sia il primo veramente dichiaratamente popolare di sinistra. No, diciamo che in Colombia dopo il 1810 che si è fatto l'indipendenza di Colombia e che il criollo, cioè il erede della Spagna, questi bianchi di famiglia borghese, si hanno preso il potere non l'hanno mollato fino a oggi, bueno, fino al 19. È la prima volta in Colombia in 214 anni, in 214 anni, che sembra una cosa incredibile, che salgono al potere una forza alternativa o di sinistra, e è ancora di più, è la prima volta de sinistra, ormai. Che in Colombia sale come vicepresidenta una donna nera, nerissima, tra altre cose, mamma da sola di due figli. Incluso il primo figlio lo ha fatto quando era adolescente, aveva 16 anni quando ha avuto il primo figlio. Che ha lavorato in miniera. Ha lavorato come domestica, golf. Che non è esatto. Che ha lavorato come golf, ha lavorato come miniera, ha sito amenazata, ha sito desplazata, le hanno fatto di tutto, e oggi è vicepresidenta di Colombia. Di una cultura africana bellissima, interessantissima, che onestamente oggi mi sento più vicino a Africa che a Colombia, perché è veramente interessante, anche con criteri molto interessanti della cultura africana che si retomano nel discorso politico colombiano, come la storia di vivere sabroso, che sarebbe più o meno come vivere benissimo, che il sapore della vita. Yeah. Il sapore della vita, no? Questo para vivir sabroso era un po' lo slogan de Francia. Sì. Allora, a noi ci sembra una frasetta così, no? Perché siamo abituati a quell'infarinatura orrenda e commerciale del Sud America. Vivir sabroso significa senza avere più paura, senza avere più il terrore. Quindi vabbè, vivir sabroso è molto quello che dice Marta, è vivere senza paure. Es vivere d'accordo con la natura, es vivere in sintonia con le persone, es vivere senza paura, es vivere sviluppando le parti più umane che abbiamo, la solidarietà, l'amore, el svilupparsi come essere umano, indipendentemente di lo che te consideri giusto, bello o ti piace farlo, poderlo fare. È tutto questo, non è un criterio burghese della vita facile, adinerata o con soldi, non è andare a prendere la birra al mare o il whisky e vivere con le donne, no, quello non è, è una cosa molto più intima, viene di un che questo sì è bellissimo, viene da una cultura africana Butu, dove stava adesso il Congo, che hanno questi criteri di vivere sabroso, vivere con questa armonia, e è un concetto fatto che sta, se gestisse la popolazione nera latinoamericana colombiana almeno desde los 500 años de esclavitud. Esta idea siempre está al interno de esta cultura nera y hoy ha diventado el eslogan de todo un país. Y quello es bellísimo. Quello, te puedo garantir que no so qué puede capitare domani. Porque no lo sappiamo, no sappiamo si i progetti possano andare a porto, si dentro de 3 mesi o 10 anni lo stiamo criticando peggio che mai. Quello non lo so, non lo so perché non lo posso sapere. Lo único che so è che il progetto, come ideario, è veramente bellissimo. È un intercambio interessante di culture. Oggi y Gustavo Petro, que no viene de la familia burguesa, pero comunque es una persona bianca, tipo europea, dicono que me ha enviado un mensaje que es de origen italiano. No, siamo proprio non comunque. Lo so, pero bueno, quello no, no sono vabbè, seguro, pero vabbè. Non c'è interesse, lo único vero es que accanto con lui está esta dona que fa el contrasto aunque visuale. O sea, sì, è una cosa interessantissima. C'è un progetto interessantissimo, è un progetto interessante di recuperare la vita, recuperare la pace in Colombia, di fare passi a favore di recuperare l'acqua, la terra, la natura, che sta dentro tutto questo contesto. È un po' ottimista il programma di Petro. Oggi leggevo questa avvisaglia, questo tweet di Petro che si rivolgeva a Duque e gli diceva: volevo dire a tutti e tutte, ma insomma chiaramente non è che tutte e tutte poi possono, quindi era un messaggio così, non diceva il nome ma era diretto a un personaggio in particolare, che tutti gli aeroplani che si compreranno, gli aeroplani che si stanno comprando in questi giorni per darli alle istituzioni, appena divento presidente verranno rivenduti, quindi è inutile che li comprate perché appena salgo presidente li rivendo. Questo per farvi capire che insomma poi ognuno si sbriga a sistemare le proprie faccende sapendo che l'aria cambia, no? Un po' è questo quello. Dai, che io un'altra cosa che credo che forse la Colombia non aveva mai visto e che credo che faccia proprio parte del cambiamento che c'è stato in questo periodo preelettorale, del grosso lavoro che è stato fatto mettendo a rischio sicuramente la vita di Petro e di Francia Marquez, ma sicuramente anche di un entourage che li ha accompagnati, insomma è stata tanta la gente, no? Che dentro e fuori la Colombia si è esposta un po', perché insomma ancora non si sapeva cosa sarebbe successo. Non so se la Colombia ha mai visto per esempio un palco come quello che era quello della festa dopo la vittoria, così pieno di afrodiscendenti. No, mai ci hai visto. Non mai, so, mai, forse mai, c'era mai, una no, persona no, no, bianca. Queste cose io un po' per il poco che conosco la Colombia, perché non la conosco tanto, non credo che sia uno spettacolo che si sia visto tante volte. C'è, no? C'è molte cose da dire. Prima di tutto che dire che in Colombia La maggioranza dei voti che ha ottenuto Petro e il patto storico l'ha ottenuta in tutta la periferia di Colombia. Cioè, stiamo parlando tutta l'Amazzonia, frontiera con l'Ecuador, tutte le due coste, Pacifica e Atlantica, e l'Alta Guajira, di cui abbiamo parlato, Guajira, e casualmente sono zone che qua noi abbiamo parlato moltissimo, moltissimo durante moltissimo tempo, perché sono altamente marginate, sono le zone che hanno gravissimi problemi con la mineria, con l'acqua, con l'energia elettrica, sono zone popolate per indigeni, neri e poveri. E queste sono uscite non in centinaia, in migliaia. Mai si aveva visto una mobilizzazione così grossa di indigeni, che avevano cominciato anche 2 giorni prima per poter andare a un centro di votazione, per che avete un'idea, perché non è la idea che Europa di che no, hanno preso la macchina, si fanno 2 minuti in macchina, scendono lì, votano e alle 2 minuti stanno a casa. Noi, moltissime della popolazione, soprattutto dell'Amazzonia, cominciano a fare un giro in canoa, in canoa por due giorni por tutta l'Amazonia, por el Amazonas, che è un fiume impressionante. Bisogna aver coraggio per salire in una piccola, bisogna aver molto coraggio per salire in una piccola imbarcazione di legno che sempre si sta filtrando l'acqua. Questo sempre è normale, che si filtra l'acqua. Farsi due giorni per arrivare a un centro di votazione e votare per una proposta di paese diverso. Questo non si è visto mai. Già abbiamo detto che in questa occasione ha votato il 58% delle persone, però il 58% di queste poveri. È una cosa incredibile. Nella parte centrale di Colombia, la più ricca, la che più teoricamente sta bene, dove stanno le grosse città, eccettuando Bogotà, che Bogotà è una città digna, impressionantemente digna, tutti i resti hanno votato per Hernández. Quindi questo fo, le elezioni si possono leggere nel senso, le settore popolare veramente poveri, los que hanno sofferto la guerra, los que hanno sufren la fame, la dimenticanza del Stato, votano per un candidato. Le altre zone che stanno relativamente bene o che gestiscono il soldi, il potere, votano per un altro, e quello vuol dire tutto. Per me lì si explica tutto il progetto del patto storico. Vuelvo y retorno a la stessa discussione. Io per il momento sono contentissimo che il patto storico haya potuto salire al potere. Sono contentissimo che la vicepresidenta di Colombia sia una donna nera, afrodescendente, con una capacità e una dignità che mi augurerei per qualunque persona. E nel momento che questo comincia a cambiare o va storto, penso che bisognerebbe anche dirlo, capito? Per etica, per certo, etica mia, certo, certo. Sappiamo etica mia. Benissimo che loro... Però fino a che quello certo. non capite, io farò tutto lo possibile per appoggiare quello. Certo, dall'altra parte infatti c'è un potere fortissimo. Dall'altra parte c'è un potere fortissimo, sono consciente che il potere rimangano il potere, perché qua abbiamo preso la presidenza, non il potere, che sono due questioni diverse. Esatto. Il potere continua, i gruppi paramilitari continueranno, non vanno a lasciare le armi, perché no, il narcotraffico, il potere del narcotraffico continueranno, le multinazionali continueranno a fare il casino che stanno a fare fino a che si sistema in un'altra forma. Le trattati di TLC, trattati di libre commercio, continuano vigenti. La estrazione di petrolio fino al momento continua. Quindi è tutto un processo. Io sto dicendo i problemi che già abbiamo parlato l'altra volta, che sono problemi: mineria a cielo aperto, la estrazione di petrolio attraverso il fracking, il gruppi paramilitari, il narcotraffico, quello continua per il momento, continueranno e forse continueranno per parecchio tempo di più, perché non va a essere facile, non va a essere facile gestire un paese, non va a essere facile rimanere vivo. Estoy parlando per il presidente e la vicepresidenta, ancora manca fino al 7 di agosto. Io mi auguro che non succeda niente, però comunque stiamo lì, stiamo attenti a quella possibilità, stiamo qua cercando di capire come stanno andando le cose. Però la realtà è che Colombia, per prima volta in 214 anni, ha detto basta. E io penso di più, Colombia non ha cambiato questo 19 di giugno. Colombia ha cambiato il 28 di aprile dell'anno scorso, quando ha cominciato la rivolta popolare. Sono questi giovani che hanno lasciato la vita, sono questi giovani che hanno perso gli occhi, sono queste donne violentate in strade che hanno segnato il cammino. e che probabilmente insomma l'aveva detto qua, lo ha detto qua qualcuna volta, se voi mi sentite continuamente, sempre l'ho detto, Colombia ha cominciato il cambio, ha cominciato il cambio, quel cambio è imparabile indipendentemente da quello che succeda. Colombia ha cominciato, la popolazione colombiana si è stancata di contare morti, di sapere, di vedere le donne violentate, di non avere con che mangiare in una casa, mentre una piccolissima elite di Colombia vive più che bene. Colombia si è stancato di quello, e lo che si è fatto il 19 di questo mese è una piccola segnale di tutto lo che dovrei cominciare a cambiare. Però forse anche che Petro comincia chiedendo per esempio ai procuratori di liberare i giovani della prima linea, anche forse è una assunzione di consapevolezza del fatto che questo cambiamento non è stato fatto da solo dal patto storico. Anche credo che anche questa coscienza di chi entra poi nelle istituzioni, di sapere che il popolo dal basso ha iniziato un processo che ti ha fatto arrivare lì e che questo processo viene riconosciuto, no? Non c'è uno scollamento, questo io credo pure che sia una cosa molto importante. Gustavo Petro ha fatto due annunci, bueno, più un annuncio con quel famoso discorso della vittoria, dove alcuni annunci sono parlati, alcuni sono visuali. Fra il più pesante, il più bello è questa che ti hai detto: mai in un palco di una vittoria si hanno visto tanti afrodiscendenti colombiani indigene, incluso una persona che d'origine tedesco, colombiano tedesco, che è Antana Mocus. Ma ecco chi era, quel vecchietto che sta molto male, mitico, che infatti poi ha celebrato Petro. Sì, quel personaggio è tutta una storia che potremmo raccontare in un'altra occasione. E tutto questo era una forma di dire: guarda che questo mondo, questo pezzo del paese sta cambiando, e in Colombia ci sono stati questi personaggi che voi mai avete fatto vedere, ya? Questo mi ricorda molto quando io sono entrato per prima volta a Italia, sono andato a studiare nella università, e dopo di 3 o 4 mesi è arrivata una ragazza colombiana nera a studiare nella stessa università. Tutti mi chiedevano, italiani compresi, che se in Colombia c'erano neri. Come mai? Voi siete bianchi, tutti bianchi, questa nera. E è quello. È recuperare lo che non abbiamo visto, è cominciare a aprire quegli spazi di quella Colombia non vista. E lì, e quello è un linguaggio molto chiaro. L'altro linguaggio chiaro che ha fatto è il di solidarietà con i compagni che stanno in galera, che sono presi politici, sono vittime. Non ha avuto paura a definirli prigionieri politici. Politici, sono prigionieri politici. È una richiesta che abbiamo fatto noi desde l'esterno, sempre l'abbiamo fatto, sempre abbiamo discusso che quei compagni non si possono dimenticare. E Petro fa un chiamato che ovviamente alla destra non le è piaciuto, e a me onestamente mi è piaciuto, quindi, e ha fatto un chiamato al procuratore di lasciare libere questi ragazzi. Ovviamente il procuratore attuale ha detto no, perché io sono, c'è divisione di potere, cosa che è vera, pues, ovviamente. Ha detto: se voi lo fate a livello del Parlamento, fatelo. Ovviamente fino al 7 di agosto, il che sta nel potere è Duque, lì non c'è molto da fare. Al 20 di luglio in Colombia il Senato cambia. Il 20 di luglio il Senato cambia, il 7 di agosto cambia presidente. Però fino a che non si faccia la transazione, questo cambio di potere totale, non possiamo garantire quello. Però già il fatto che lo haya detto, che non lo haya dimenticato in quel famoso discorso, che lo haya detto, che l'abbia vero, ricordato, chiaro e senza dubbio, senza possibilità di dubitare lo che sta a dire, perché è chiarissimo lo che ha detto, è chiarissimo che ha fatto strillare a tutti: libertà, libertà, che è la cosa più bella che no, era un la parola più bella che ha inventato l'umanità, e veramente mi è sembrato molto interessante. Sì, insomma, io mi sono emozionata molto a sentire un'intervista fatta anche a Franzia proprio penso 2-3 giorni prima. Si leggeva palesemente la sua tensione sul viso. Lei è pienamente cosciente del suo percorso e non finge, per cui davanti a un duce che ha sempre sostenuto che no, ma vi pare che la Colombia è in guerra, ma quale guerra? No, la Colombia non è in guerra, certo, le guerre interne, come ci ha insegnato anche Eder, non sono guerre dichiarate, ma quando muore e viene uccisa così tanta gente all'interno di un paese, come la vuoi chiamare? E Francia Marquez diceva no, effettivamente io lo dico, non ho tanta esperienza in quella che è l'amministrazione pubblica, la burocrazia, quella che gli toccherà affrontare una volta che ricopre questa altissima carica istituzionale. Lei diceva però io mi rendo conto del della realtà del mio paese, chi in questo paese ha detto che non c'è la guerra dovrebbe andare dove ho vissuto io qualche giorno e allora capirebbe che la guerra è quotidiana, anche di notte mentre dormi, no? Quindi la realtà di chi vive fuori da quelle città, l'abbiamo detto, no? La Colombia è un territorio immenso, le città sono concentrate e poi c'è tante altre piccole comunità dove succede di tutto. Lo più bello di questo è che sono due bit in parallela, sembrerebbe che fossero un problema di due universi paralleli. La realtà è che Francia Marquez è nata nelle montagne del Cauca, in un piccolissimo paese che non supera 30.000 persone, dove energia elettrica non c'è, o c'è a poche ore, dove la mineria illegale ha fatto il padrone, dove i gruppi narcotraffico e paramilitarismo hanno imposto, dove non si trova mai un ospedale, una scuola, dove non c'è assolutamente niente, e essere nata in una città di questa, essere nata lì in una zona dove nessuno sa ni dove stava fino a pochi giorni fa, essere nata lì, nera, donna sola, sì, no, ma questo, o sea, ha tutti gli argomenti, lei ha tutti gli argomenti per aver rimasto in anonimato totale durante tutta la vita, come sono stati tanti mille di persone con quelle stesse condizioni. Lei era una persona che per studiare diritto, ha studiato diritto all'Università di Cali, si alzava alle 4 della mattina, si andava a lavorare come domestica e la notte andava a fare il corso della università. Moltissime volte non aveva ni con che andare, arrivare all'università, pagare il servizio pubblico, e andava a piedi. Ha fatto una vita veramente interessantissima. E sobre ese contexto estamos meso. Si contiamo la vita de Petro, que no fue ni aunque per niente fácil, Petro ha avuto un'altra historia interesantísima, pero en questo momento yo volevo recalcare più la de Francia. Petro fue guerrillero. Fu condenato a torture, è stato 2 anni in galera, dopo ha fatto un processo di pace complessissimo, fu uno degli ideatori della Costituzione colombiana del 1991, non è l'unico, però fu uno dei che ha stato in quel processo, dopo ha diventato senatore, economista, con vari postgradi, dottorati in diverse parti del mondo. È tutta un'altra storia, certo, però certo. Non è una storia neanche facile, perché lui ha avuto una persecuzione politica complessissima, quando il M19 si è preso il Palacio di Giustizia, lui stava in galera e fu torturato, poveraccio, stava già in galera quando hanno saputo che avevano preso, l'hanno torturato perché parlasse di come stava l'organizzazione all'interno del palazzo. Ovviamente lui non poteva dire niente per un motivo molto semplice, perché non lo sapeva, però la tortura se l'hanno fatta, quindi mi è andato male. Però alla fine di tutto questo ha costituito tutto un programma. Voleva chiarire una cosa sobre la ERI, che te mi ha detto che per chiarire le cose. Sì, sì, no, vabbè, queste Colombia, sono... Colombia sta negoziando per la corruzione, sia un aereo per la per il comandante della polizia, un aereo per il procuratore generale di Colombia. Vabbè, una questione intorno a 8 aerei, un aereo per il presidente nuovo. Sta negociando solamente el aéreo para el gobierno, costa 8 millones de dólares. Petro ha dicho que en queste cose no fará inversiones porque no lo considera justo. Que quel soldi que se debe invertir en quello dovrebbe ser utilizzati per creare, fare qualcuna università in Colombia. Quindi è la discussione che abbiamo fatto durante anni in Colombia, che dovrebbero togliere soldi all'amministrazione e al gruppo alle forze militari. Non spendere tanto in guerre e spendere molto più in cultura, e stiamo in quel consenso. E sembrerebbe, per il momento sembrerebbe che quella promessa la vuole cumplire. Ha avuto... curiosamente ha avuto una telefonata il dia ieri con il presidente degli Stati Uniti, che come cosa curiosa Duque, il presidente di Colombia, ha tardato 2 anni per intervistarsi con il presidente degli Stati Uniti, e Petro si è tardato 24 ore, quindi c'è una piccola differenza. Ha parlato con il presidente di Venezuela e ha cominciato a fare i processi per riaprire le frontiere colombo-venezolane, che sono un po' la frontiera di fuoco, no, è una frontiera, immensa, no, immensa, oltre ad essere immensa, voglio dire, casomai, diciamo, no, e aprire tutte le relazioni diplomatiche con Venezuela sotto un concetto che per me è molto valido: indipendentemente chi governa un paese, le relazioni diplomatiche dovrebbero sempre rimanere, la possibilità del dialogo dovrebbe essere sempre nel tavolo. E ha cominciato, sembrerebbe che ha cominciato con questo, quindi ci sono speranze. Ovviamente questo sono, per il momento sono annunci, perché lui non può determinare niente fino a che non si prende il potere, ossia al 7 agosto. Fino al 7 agosto non può, fuori di quello bisogna sapere se lo che va a fare, bisogna passare per il Parlamento, Senato, perché no, ossia, ovviamente bisogna fare un processo legislativo in alcuni casi, in alcuni no, però stiamo in quel processo. Comunque fu una storia interessante. Mi è sembrato molto molto molto interessante che la popolazione nera di queste povere, veramente povere, la popolazione indigena, qualcuno che è andato anche con il figli piccolissimi durante questa odissea di 2 giorni. Beh, ricordiamo che poi c'è una popolazione indigena in Amazzonia ancora altissima, sì, che non è assolutamente metropolitanizzata e che però appartiene alla popolazione colombiana. Insomma, se andate a cercare le fotografie, indubbiamente si vedono queste barche di legno stracolme, come noi siamo abituati a vedere forse nel Mediterraneo, ma qua insomma è un altro discorso. Vediamo come si dice, cortei di gente a cavallo che si avvicina alle città o comunque ai posti per votare a cavallo, così come vediamo indigene con i bambini legati sulla schiena e proprio dei visi indigeni non so come dire, no, per i zomi. È strano, indubbiamente è una cosa nuova per noi vedere persone palesemente indigene andare a votare e mostrare il loro cedolino con orgoglio. L'abbiamo fatto forse per una volta, sentirsi che esistono, che esistono e che possono parlare con qualcuno che li riconosce in quanto indigeni, in quanto portatori di una cultura che per una volta vede rispetto, forse, no? O comunque non vede un nemico che già ti parla a mezza spalla perché non sei quasi degno della mia parola, no? Che è un po' l'atteggiamento che questa parte di Colombia che tu hai nominato oggi era abituata a sentire. A questo io ci voglio mettere le donne, insomma, le donne colombiane sono una presenza di quella popolazione che sono veramente un po' le portatrici del dolore, della pazienza, ma anche della dignità. comunque no, Francia Marquez acquisisce anche in questo che tante donne abbiano vissuto la paura di uscire di casa, la paura delle minacce continue, la paura, come ha detto Francia, no? Sapere che te ti possono pure ammazzare perché sei afrodiscendente, lavori in miniera, e dice però uno poi muore, però i figli poi come fai, no? Quindi quella mentalità di tante donne che anche hanno avuto il coraggio di andare a votare, probabilmente per una Francia che per la prima volta si sono viste allo specchio, in uno specchio che era quello delle istituzioni in cui non si vedevano mai, nessuno aveva mai il colore della loro pelle, nessuno parlava mai la loro lingua, nessuno mai diceva niente di simile alla loro quotidianità. E questo anche credo che sia un coraggio, perché il coraggio e la paura della Colombia sono per esempio tutti quegli orrori che abbiamo visto in quei mesi di rivolta e che lo Stato non ha avuto proprio vergogna di mostrare alle telecamere, sapendo che comunque la rivolta veniva mediaticizzata, non aveva vergogna di far vedere i corpi galleggianti nei fiumi piuttosto che le persone in civile sparare sostenute dalle persone in divisa. Questo perché il potere sapeva che quello che faceva lo poteva fare e nessuno gli avrebbe detto niente. Capite bene che chi non si sente parte di questa squadra vive un'inquietudine che è difficile qui da immaginare proprio profondamente, è difficile qua da percepire. Quindi io credo che veramente un po' vada celebrato proprio il coraggio di questo popolo invisibile che ha vissuto di ingiustizia ma ha llevato il bulto, non so come dire, è andato avanti nonostante tutto, e si è fatto anche il coraggio di dire: se non altro morirò motivato, no? Morirò lottando e non sparendo come sto rischiando di fare. Questo credo che sia molto importante. Comunque io penso che quella Colombia marginata, quella Colombia che si è manifestato con molta forza e che in certa forma quasi sicuramente ha fatto i contributi più importanti per fare vincere il patto storico, anche dall'altra parte bisogna fare un dialogo, almeno cercare di garantire la governabilità non soltanto per loro sino per tutti in Colombia. Y es ahí donde está la situación, el cui del problema. ¿Cómo garantizar que queste due Colombia, la Colombia marginata, la Colombia olvidada, possa avere, pero que al stesso tempo la otra parte, quella centro Colombia, quella Colombia que ha Netflix en la casa, l'aria condizionata, possano essere anche farsi sentire parte di questi paesi. È lì dove sta saranno capaci. Qui il problema è dove sta lì la forma di strutturare un paese, perché se bisogna fare quello bisogna fare, bisogna unire le due Colombie e creare un grado di solidarietà fra tutti e due. Quello lì è dove sta il problema. Perché in mezzo a questa lì sta la possibilità di fare un bel governo o un pessimo governo. Ovviamente non so se si riuscirà a fare o no, perché già te l'ho detto, io studio o faccio analisi politici, io non faccio analisi del futuro, non leggo le carte, quindi per il momento il reto, la funzione, l'obiettivo è cercare che quella popolazione che vive bene continui a vivere bene, però pensando con grado di solidarietà all'altra popolazione, e in quel grado di solidarietà cominciare a guardare il mondo verso loro, verso garantire quello. Il problema più grosso che ha in Colombia, oggi stavo sentendo una lunga intervista a un senatore in Colombia e io sto totalmente d'accordo, il problema più grosso che ha Colombia in questo momento è garantire che i 50 milioni di persone possano andare a letto almeno mangiando, almeno che possano mangiare. Ya non possiamo ancora vivere con più di 20 milioni di colombiani che hanno veramente difficoltà per trovare di mangiare ogni giorno. Se possiamo garantire questo in 4 anni, più un'altra cosa che sembrerebbe più facile, è portare il paese alla pace, a evitar la violencia interna, a evitar que nos continúen a amasar al compagni en questi 4 anni. Si Petro e Francia Marchi in 4 anni possiamo dire che questi problemi, se non si sono ridotti in la totalità, in gran parte, io penso che tutta questa lotta avrà un susseguito. Sì, penso che tutte le forze che abbiamo fatto va benissimo. Ovviamente quello è lo scopo, la funzionalità, il fine ultimo più importante per fare in Colombia, garantire che i colombiani si possano andare a letto con il stomaco pieno, con la pancia piena, e che in Colombia non continuino a ammazzare leader popolari, leader sindicali, difensori della natura, torturare persone per fregarsi il ettaro di terra che hanno, tutto quello. Se possiamo garantire che in 4 anni questi problemi facciano parte della storia, da lì in poi si potrà costruire un paese molto più grande, molto più libero, molto più digno. Ovviamente non lo so se lo logremo. Lo unico vero è che ci sono speranze, che sono speranze dell'ELN, Esercito di Liberazione Nazionale, che è una guerriglia molto grande in Colombia. Quando ha saputo che Petro ha vinto le elezioni, ha inviato 2 comunicati chiamando a un dialogo e una conversazione per lasciare le armi, che ovviamente sono processi complessi, difficili, tutto lo che volete, però almeno lo hanno fatto, già hanno fatto un passo in avanti. Aspettiamo che Gustavo Petro e tutto il gruppo di Gustavo Petro prendano la palla al volo e cominciano a fare anche quello. Sono processi complessi, però stiamo attualizzando ovviamente lo studio dei problemi colombiani, della situazione colombiana, del problema di minerie, delle risorse perse. Continueremo a farlo perché non cambierà nella prossima settimana, quindi no, questo sicuro. Io credo che appunto da qui ad agosto ci sarà un po' da tenere ancora gli occhi aperti, perché veramente ciò che i colombiani e le colombiane hanno deciso diventi realtà, e perché questo processo cominci, senza rimanere nell'incanto che lo sappiamo, insomma, sappiamo quali sono, quanto è grande la nube nera che aleggia intorno, sappiamo quanta già è iniziato un po' un teatrino del pettegolezzo, no? Anche così riguardo alle forze armate, certo è che non si può, come diceva Berta, il popolo questa volta, no? Il popolo lotta se c'è una speranza, ma non una speranza qualunque, non la speranza che a noi ci hanno insegnato i preti, ma la speranza in un progetto che si scrive collettivamente, che si mette insieme collettivamente, che quindi trova concretezza ad ogni suo passo. Certo, ecco, come abbiamo detto, ci sono tutte le criticità del caso, ci sono sicuramente non solo all'interno della Colombia ma anche all'esterno della Colombia dei poteri tremendi che fanno pressione, e che vedremo come reagiranno, quanto ruggiranno di fronte a questa vittoria. Eder, vogliamo fare una piccola pausina? Sì. Dai, una piccola pausa, che allora così Nidia Gongora è stata insomma una grossissima sostenitrice, fatta le foto, le chiacchiere insieme a Francia Márquez. Vero è che Nidia Gongora è anche una donna che quando è stata scoperta da grandi musicisti e produttori internazionali subito se la volevano accaparrare. E allora noi ci sentiamo Quilates, proprio gruppo di musica molto afrodiscendente colombiana, insieme appunto a Nidia Gongora, Mi Cultura, e lei canta appunto, non so bene che fiume è questo, ma da una bellissima barca di legno, proprio quelle che abbiamo visto usate dalla gente cariche per andare così a votare a 2 giorni di navigazione. Baila currula o danza o emoción, alegría y sabor. Quilates y Nidia representando el folclor que se sienta. Ahí. Mi cultura. Ahí. Zapateando. Ahí. Coqueteando. Ahí. Remenea. Ahí. Ahí la cintura. cantora no necesita micrófono. El WhatsApp, ¿dónde está? El cununo, ¿dónde está? Que repique la maripa, no me deje el bombo allá. Esto es pa' ti, pa' que se quede en tu memoria. El peso musical haciendo historia. Ahí lenguas, culturas, folclore y religión siguen vigente, continuamos con la tradición intacta. Las expresiones son innatas, ante invasiones siguen firmes nuestras posiciones. Los pueblos repican el ritmo que en mi corazón palpita. Le canto a Santa Bárbara bendita, hey, y no te metas. Nuestras costumbres se respetan, desde la jungla suena el piano de la selva. Que se sienta ahí mi cultura. Nuestros cultivos, subiendo el estrato, justificando el maltrato, hey, haciéndonos ricos por un buen rato, cambiando nuestro suelo por asfalto, cuando la verdadera riqueza está en el campo. Y les Nidia. Insomma, questi sono un po' i suoni classici di quella che è la musica afrodiscendente, diciamo, della Colombia. Allora, che come vogliamo chiudere? Insomma, abbiamo fatto festa, vi abbiamo anche un po' fatto capire perché oggi facciamo festa, ma da domani di nuovo si sta un po' con il sorriso, ma sempre le antenne dritte, gli occhi aperti. No, comunque, sì, per finire la storia. Mai in Colombia si è fatto tanta festa per una elezione presidenziale. Che poi a far festa i colombiani sono bravi forte. Siamo bravi forte, hanno fatto festa praticamente in tutte le città di Colombia, stanno festeggiando non so quanto, o sea, mai in Colombia. Ci parliamoci della festa che hanno fatto per Duque 4 anni fa, que fue la única que he visto, una de las únicas que he visto una que no faltó en Alta Guajira 4 años fa, eran 6-7 máquinas Toyota a col giro da piazza, no, magari estaban todos en torno a una piazza, todos armati disparando el fusil y la pistola. Adesso in realtà la festa era popolare, c'erano centinaia e centinaia di persone bailando, facendo rumore, hanno fatto soprattutto nella città di Cali hanno fatto una cosa impressionante. In Cali il patto storico ha ottenuto quasi l'80% dei voti. Ricordiamoci che la città di Cali fu la che più ha sofferto durante la rivolta, hanno ucciso un sacco di ragazzi, l'attentato alla Guardia Indigena, a Cali l'hanno distrutta durante quelle proteste, hanno sofferto e per qualcuna cosa abbiamo ottenuto lì intorno all'80% dei voti soltanto nella città di Cali, e hanno fatto una festa immensa. Ne stiamo, come dice Marta, a partir de la próxima settimana orecchi, testa dritte e continuiamo a fare lo che sappiamo fare, sia analisi, situazione dei problemi colombiani, e quando c'è una cosa buona si farà, si dirà, e quando è una cosa che no va, siamo pronti anche a fare le critiche, lo faremo, siamo qui apposta per spronarli. No, anche dire che lo che non va lo faremo, certo. Quando bisogna dire lo che va, però ci sembrava giusto che avanti, con tutta la, diciamo, l'attenzione del caso, io credo che era giusto celebrare questo coraggio, però il sì, coraggio di queste persone, credo che sia giusto fargli veramente un grosso applauso in una quotidianità per noi inimmaginabile, capire che cosa significa veramente superare un muro enorme e scuro di paura. Una persona che conosco mi ha scritto la notte, perché io dicevo ma amo vinto, c'era quell'ora che non si capiva, tutti festeggiavano, io dicevo no raga, io finché non lo dicono ufficialmente non ci credo. Mi è arrivato questo messaggio dicendomi: ti rendi conto che abbiamo un presidente che sarà difeso dalla guardia indigena? Anche questa è una cosa che è una frase incredibile, come a dire, chi lo tocca la guardia indigena scende. Insomma, sappiamo, la guardia indigena è stata anche lì attaccata durante la rivolta, perché faceva parte di quel popolo invisibile, perché è necessaria una guardia indigena. Quindi voglio dire, quando Petro ha uscito alle zone indigene, Cauca e quella zona, gran parte della protezione della vita, e Petro ha contato con questa organizzazione immensa che si chiama la Guardia Indigena, che fra altre cose, quando uno parla di Guardia Indigena moltissimi pensano che sono persone armate, sì, dei bastoni. No, de bastoni, e è tanta unità, dialogo, no? E tanta unità, è un popolo che sono 500 anni di resistenza. Hanno resistito tutto, come dice la canzone, e sono los che hanno protetto gran parte in quel momento a Francia Márquez e a Petro. Quindi basta, non ce l'ho niente che dire già. No, insomma, credo che le cose importanti le abbiamo dette, sì. Appunto. Sì. Ci diamo questa settimana di festa, dalla prossima si ricomincia, con una gioia in più, no? Con una lucina in più che ci scalda il cuore in questo senso. Ma insomma, chi conosce la Colombia sa che ancora il gioco non è fatto. Abbiamo fatto una buona tappa, ma è ancora tutto da vedere. Eder, io comunque, insomma, adesso ti voglio ubriaco da domani a lunedì, no scherzo, però insomma noi siamo qui, lo sai, io non credo che smetteremo di parlarne, anche io credo sarà importante farlo, voglio anche, bravo, mo mettiamo questa, tieni, cercala qui, allora mentre io chiacchiero, mettiti qui e scrivila lì, così la troviamo, scusate, facciamo le manovre qui. Che dire, allora, insomma, ti ripeto, noi staremo qui per continuare a... aspetta, scusate, noi facciamo queste, la tecnologia non ci appartiene qua, esatto. Allora, dicevo, noi continueremo a stare con gli occhi sul nuovo presidente e su quello che accade nel paese, continueremo a cercare di dargli una lettura, come dice Eder, saremo qua anche per fare un'analisi, insomma, niente ci scorda. Abbiamo parlato delle basi statunitensi in Colombia che sempre lì stanno con le loro presenze, abbiamo parlato dell'enorme frontiera col Venezuela, potete capire questo che cosa significa con questa presenza statunitense. Sicuramente abbiamo detto che Petro si è potuto contare un po' sulla sua incolumità e perché ha avuto la lungimiranza di andare a aprire rapporti diplomatici, non di amicizia, un po' con chi che sia, sapendo che se tu acquisisci un'autorità politica poi non è che te può proprio toccare ovunque. E allora io direi che sì, questa è la scelta Eder, quindi non posso non dedicargliela, credo proprio che sia la canzone giusta, tornando, no, a quel sogno di cui abbiamo parlato, chissà, la Colomba potrebbe essere l'inizio, no, di un percorso più grande che chissà un giorno potrebbe toccare tutto il Latino America. Grazie Eder, noi vedremo che fare per la prossima settimana. Ok, grazie a voi e buongiorno a tutti. A presto, e allora vi lasciamo con questo brano che non ha veramente bisogno di presentazioni. Sì, bueno.